con Pedro Armocida per parlare dell'anno cinematografico 2019 e per sapere anche quali sono i suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala. Pedro, ben trovato. Ciao a tutti, grazie di avermi interpellato. Beh, sei uno dei più fedeli, insomma. Beh, almeno in questo. Pedro, che ti è parso di questo 2019? Record con te, dicevo appunto, vabbè, ma forse lo dico ogni anno, però no, ecco, la difficoltà sempre a trovare solo cinque titoli, quest'anno mi è parsa ancora più ardua del passato, quindi da questo deduco che l'annata è stata molto buona, oppure la difficoltà nello scegliere rivela, che ne so, un'età di compromesso per cui inizia, no, ma invece no, quando uno diventa più grande, come diventa più cattivo con i film, perché dice che non ci sono più capolavori o cose così. Vabbè, comunque un anno secondo me ricco di tante proposte. Cinque film che sentirete saranno un pochino statunicentrici, americanocentrici, però che posso farci? Non c'è neanche un italiano, che facciamo? Mamma mia, è la fine. Dici. In ordine sparso, però appunto il primo che volevo dire è Joker di Todd Phillips, il film visto al Festival di Venezia che, diciamo, ancora una volta riesce a segnalare in qualche modo appunto dei film secondo me molto importanti che provengono appunto dal cinema statunitense, e per fortuna non sapevo se mettere dentro Roma o no, poi ho scoperto che era già uscito, quindi era il 2018, però anche Roma appunto al Festival di Venezia fu presentato, e non è che li accomuno, però per dire l'importanza anche di una selezione che arriva a segnalare film molto importanti, festival come sappiamo ne dirigo uno, ma sono un passaggio importante per alcuni film. E comunque Joker si è rivelato in qualche modo il film dell'anno, sia per la sua potenza, per chi l'ha apprezzato, ma anche perché appunto è stato leggermente anche un film divisivo. Io capisco anche chi naturalmente ha conoscenza cinematografica e ha studiato un po' di cinema e soprattutto l'ha visto, che potrebbe apparire un film che ricalca degli stilemi del passato. Questa è stata la critica, diciamo, forse più forte e per alcuni versi forse non dico condivisibile, ma si può capire. Però invece io l'ho trovato un film in questo senso dirompente anche proprio nel riscrivere quel tipo di cinema a cui sicuramente fa riferimento. Mi è sembrato un film preciso nel parlare dell'oggi in questo modo. E naturalmente sorprendente anche perché appunto il regista, che almeno io comunque ho apprezzato anche nella saga di Una notte da leoni, è un regista che non si pensava potesse tirar fuori un film così dirompente, e quindi anche per questo, diciamo, la sorpresa è stata duplice, fermo restando poi naturalmente l'interpretazione di Joaquin Phoenix, che poteva facilmente arrivare a gigioneggiare, come anche lì è stato criticato. Invece comunque credo che sia un'interpretazione sempre sul limite dell'esagerazione, dell'overacting, ma che invece si mantiene esattamente molto fedele al personaggio che interpreta, che appunto ha quegli scatti di follia che abbiamo imparato a conoscere anche solo, anche chi non l'ha visto oramai, è un film entrato, come dire, nell'immaginario collettivo, anche se qualcuno l'ha visto, ma è facilmente iconograficamente riconoscibile. Quindi questo in qualche modo è un valore che va al di là del film stesso, perché appunto è arrivato alle masse più ampie di spettatori. Vabbè, facciamo che rimaniamo nel territorio statunitense, così ci ritroviamo, perché sono 3 su 5 adesso, poi pensavo prima che fossero tutti, però ho mantenuto una piccola quota extra America. Naturalmente io amatissimo Quentin Tarantino, quindi c'era una volta puntini puntini Hollywood, anche se proprio questi puntini in edizione poi che si vede al cinema si spostano, però non è un dato fondamentale, mentre è fondamentale il racconto che riesce a fare Tarantino grazie appunto ai protagonisti che utilizza, gli attori che lavorano per lui, quindi Leonardo DiCaprio in primis, Brad Pitt e naturalmente anche Margot Robbie. Curioso che anche questo è un film che in qualche modo rievoca e e parla di un passato recente, anche dal punto di vista della cronaca americana, diciamo fondamentale, i fatti avvenuti appunto a opera di Charles Manson, diciamo ideatore dell'eccidio avvenuto uccidendo Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski. E quindi questo modo di ritornare a quel racconto, cambiandolo, come abbiamo visto fare oramai in vari film, Tarantino riscrive la storia come vorrebbe che fosse andata e come tutti quanti noi vorremmo che fosse andata, con Django e questa volta con C'era una volta Hollywood. E quindi racconta un mondo in maniera molto semplice, diversamente dal passato, senza grandi slanci registici, e lui che ci ha abituato appunto a movimenti della macchina a testa mirabolanti, e un andamento lento che almeno a me mi ha portato completamente in quegli anni. E la scena che poi ricordo che alla fine mi ha più impressionato, passa così un po' velocemente, uno non ci fa caso, ma è una scena strana nella quale lui, Tarantino, riaccende proprio le insegne di quella Hollywood, di quella Los Angeles del 1969. Quindi l'ho visto come appunto un omaggio estremo alla Hollywood di un tempo in cui proprio lui plasticamente riaccende tutti quei locali, tutte quelle insegne, quel mondo che chiaramente non c'è più. Quindi ecco, in questo senso mi ha sorpreso, ecco, appunto un film non registicamente poderoso come ci ha abituato lui, ma alla fine sotto traccia, un film che racconta profondamente quegli anni. E il terzo film non poteva non essere, momento di sospensione, Il Corriere del Mulo, il mulo, di e con Clint Eastwood. Allora, questo è importante, il di e il con, perché tutti i film di Clint Eastwood, per me, un po' come con Spielberg e pochi altri, sono sempre di altissimo livello e interesse. Però i film in cui, un po' come succede, almeno a me succede con quelli di Woody Allen, quando c'è Woody Allen, o in questo caso quando c'è Clint Eastwood, ci sono più legato. E quindi mi piaceva naturalmente mettere questo film tra questi tre film dell'anno, soprattutto anche per così un mio omaggio personale a Clint Eastwood, che appunto appare e si mette in gioco ancora una volta e racconta quello che lui piace raccontare, cioè in qualche modo anche i paradossi di una certa America e anche il suo sguardo, che sappiamo essere lo sguardo di un repubblicano, in maniera semplicistica si potrebbe dire di destra, ma è un uomo che è appunto da un punto di vista umano è sempre formidabile, per cui è sempre dalla parte degli ultimi. C'è una sequenza, anche qui mi piaceva il nucleare, un momento in cui fa vedere come due latinoamericani hanno paura di un controllo di polizia, non perché avessero nulla, ma proprio per come la polizia fa questo tipo di controlli, che se sei appunto un bianco sono di un tipo, se sei di un altro colore della pelle sono di un altro tipo. E quindi ecco la posizione di Clint Eastwood in una scena che chi ha visto il film può chiaramente vedere come un po' appiccicata, dici, ma perché si sta soffermando su questa questione che non ha narrativamente tantissima importanza. Ecco, fa vedere anche un lato di Clint Eastwood in questo senso inedito, e quindi chi taglia con l'accetta destra, sinistra, repubblicano, democratico, sedia vuota, quando c'era da leggere il presidente in una sortita forse infelice di Clint Eastwood televisiva, diciamo alla sua tenera età, a modo di fargli credere tutti quanti. E a questo punto ho pensato appunto di non continuare con l'America, anche se avrei potuto, però con un film poco amato che è Benvenuti a Marwen di Robert Zemeckis, che cito solo, e come avrei voluto mettere Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, di cui ho parlato già prima. Però appunto, non essendoci lui, posso non metterlo tra i 5 film, anche se lo metterò tra i 10 l'anno prossimo. Sì, perché facendone anche per film TV, per la rivista, l'anno è diverso, va da novembre a novembre, vabbè, sì, questo sì. Chiudo subito la parentesi. E quindi tutto questo per dire che arriviamo a un film sudcoreano, ma non quello che ti aspetti tu, che forse si aspettano anche gli altri, ma non per amore di essere controcorrente, ma perché penso che Burning, che è questo film Amore che brucia, di Chang Dong-li, chissà se o di Chang Dong, forse di Chang Dong, è un film che mi ha completamente rapito, non so se tu l'hai visto, adesso non so se... Visto ed è, lo considero un gran bel film. Ah, ecco, beh, ecco, no, ma diciamo, non, l'altro film che non ho messo, che certo. È Parasite, non ha senso, secondo me, però nella mia testa un po' l'ho fatto, non ha senso, non è che perché sono tutti e due sudcoreani, uno sceglie uno, uno sceglie l'altro, anche Parasite che è un grandissimo film, però Burning è proprio mi ha preso tantissimo, come dire, da un punto di vista anche di narrazione, di registica, cioè l'ho trovato un film in qualche modo più innovativo, ecco, da un linguaggio, diciamo, più interessante, meno meccanico rispetto a Parasite, però già se qualche ascoltatore dice ma perché continua a metterli insieme, non è che, come dire, come mettere insieme due film italiani, non c'è, cioè le scenografie sono ampie, però noi siamo così un po' provinciali, quindi diciamo che metto a confronto questi due film coreani, e rimane anche qui quando uno pensa ai film anche di queste classifiche che sono belle anche per questo. Io immagino, ripenso un attimo al film e mi vengono in mente appunto quelle sequenze, e qui c'è una sequenza, diciamo, sul tramonto in cui i tre protagonisti, una donna e due uomini, trascorrono, diciamo, il pomeriggio di fronte a questo tramonto pazzesco con gli echi, anche qui come anche in Parasite della Corea del Nord, che curiosamente ritornano, loro vanno, diciamo, in questa casa fuori città, un po' vicino al confine con la Corea del Nord, quindi tutti e due i film toccano in un certo modo questo problema che poi esiste, una divisione appunto tra le due Coree, anche questo è bello che in film trattano temi anche complessi, anche solo accennandoli. E va bene, questa sequenza in cui lei balla e si spoglia con loro due che la guardano è una delle sequenze più belle degli ultimi anni, quindi ecco, il film già solo per quello, ma poi c'è tutta storia, non storia, un film molto fatto di ellissi, molto poco spiegato, molto misterioso, ecco, anche questo è un aspetto molto interessante, molto lungo, però io sinceramente, a parte che non ne posso più, no, a parlare di lunghezze, oramai sembra che non possiamo più vedere film lunghi, perché appena dicono questo film dura più di 120 minuti dice addio, come si farà? Però appunto alcuni film hanno un senso anche sulla durata, ecco. Sì. E quindi ecco, Burning, L'amore brucia, ha bruciato anche per me. E siamo all'ultimo, che è un altro dei miei registi amati, e arriviamo in Europa, non in Italia, però in Spagna, che è Pedro Almodóvar per il film Dolor y Gloria. E anche qui io sono rimasto così completamente rapito da questo racconto, che possiamo vedere quanto meno sia autobiografico rispetto alla vita di Almodóvar, ma tutti i film di Almodóvar in parte hanno comunque raccontano, devo dire, è andato avanti negli anni sempre di più, raccontano del regista stesso, ma anche qui con una grazia, una leggerezza, una anche naturalezza veramente commoventi, e con un attore che da tanto tempo non vedevamo così centrato in un film, così dentro la sua interpretazione, che è Antonio Bandera, peraltro è uno degli attori all'inizio feticcio di Almodóvar, da Labirinto di Passioni a Matador, soprattutto alla Legge del Desiderio, che ha degli echi lontani, ma nell'amore che viene rievocato di Antonio Banderas Grande, con un amore più giovane con un altro uomo, ecco, c'è qualche ecco della Legge del Desiderio, che è quella che poi, proprio la Legge del Desiderio, che muove tutte le nostre vite, senza guardare appunto il sesso e altre cose. E quindi un film molto maturo, ma non senile come un po', non c'entra niente, ma me lo perdonerete, il film di Martin Scorsese. appunto non nell'accezione migliore del termine. E quindi ecco, spero che vincerà anche l'Oscar come migliore film straniero, ma anche se Parasite, come sappiamo, sembrerebbe avere sulla carta più possibilità, però io tifo Almodóvar, dolore e gloria. Per finire, cito solo, prima ho citato Roman Polanski per Tarantino, Amici di Sharon Tate, però vabbè, L'ufficiale della spia è uno dei film miei più amati dell'anno, però non sono riuscito a metterlo dentro, ma lo cito. E come italiano cito solo, e sarà un po' una sorpresa, un film che si chiama Beautiful Things di Giorgio Ferrero, una specie di documentario in 4 capitoli, è un film veramente sorprendente, quindi ecco, questo secondo me è il film italiano dell'anno. Un saluto e un ringraziamento a Pedro Armocida, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon anno.